Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Si unanime in Consiglio dei Ministri alla riforma della giustizia. Berlusconi non è ad persona, ma poi aggiunge: finalmente potrò difendermi in tribunale. Il prezzo del petrolio frena la ripresa, allarme di Confindustria, torna a calare la produzione industriale. Avanza l'esercito di Gheddafi, Parigi riconosce gli insorti. Taglia i beni culturali, protesta anche il FAI. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati, torniamo a Palazzo Chigi, una conferenza stampa fiume, quella seguita al Consiglio dei Ministri che questa mattina ha dato il primo via libera alla riforma della giustizia. Solo il primo passo di un lungo percorso, ma il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Guardasigilli Alfano hanno risposto a lungo alle domande. Andiamo allora da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno Anna. Riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri all'unanimità. Il Premier Silvio Berlusconi e il Guardasigilli Angelino Alfano hanno appena terminato qui in sala stampa a Palazzo Chigi la presentazione del disegno di legge costituzionale. È un punto di svolta, spiega il Premier, con un cerotto al volto per l'intervento subito lunedì scorso. E mostra un grafico sulla giustizia contemporanea a subire sbilanciata verso i PM, ma sentiamo a questo proposito il Premier. Il giusto processo non deve essere soltanto eseguito e portato a termine in tempi ragionevoli, deve garantire un contraddittorio tra le parti con l'escussione di tutti i testimoni che la difesa vuole portare al processo e deve essere garantito da una parità tra l'accusa e la difesa. Questo è il processo e questa legge, in fondo direi che la filosofia principale di questa riforma costituzionale è di introdurre anche nel nostro Paese questo giusto processo che è un pieno diritto di tutti i cittadini. Berlusconi sottolinea che la riforma non è fatta contro qualcuno né per i processi in corso a suo carico, anzi in quei dibattimenti, promette il Premier, si prenderà delle belle soddisfazioni. Anna. Sì, e c'è un'altra questione discussa. Una domanda in proposito al Guardasigilli Alfano è arrivata dalla nostra Donatella Stasio del Sole 24 Ore, sentiamo. Sembra un'apparente contraddizione il fatto di dire che ovviamente il governo cercherà il dialogo con l'opposizione per realizzare la più ampia condivisione di questa riforma e poi però presentare già un pacchetto di 10 leggi di attuazione che fanno riferimento, immagino, alla riforma così come è stata scritta. Nel merito, noi non abbiamo già depositato alla Camera i disegni di legge, abbiamo un indice ben preciso, stiamo lavorando e siamo a buon punto, lo diceva poc'anzi il Presidente del Consiglio. Perché? Perché vi sono una serie di rimandi nella Costituzione alla legislazione ordinaria e sarebbe sbagliato se un governo attendesse la approvazione ultima della riforma costituzionale e poi dal 2013 in poi cominciasse a lavorare per i disegni di legge di attuazione. Ci portiamo avanti col tempo, è un processo di efficienza legislativa che ovviamente terrà conto di tutti i contributi delle opposizioni che vorranno contribuire. Vale ciò che ho detto poc'anzi, noi avvieremo nel Paese ed in Parlamento un grande dibattito pubblico dove tutte le posizioni saranno alla luce del sole e in riferimento al merito di queste 11 proposte di legge, noi presenteremo anche in quella circostanza dei testi che non saranno chiusi al contributo delle opposizioni, non saranno blindati, saranno coerenti col nostro impianto. Se il Parlamento dovesse un tantino correggere o modificare o migliorare il nostro impianto, parallelamente interverremo sui disegni di legge. Dunque, solo il primo passo di un percorso che sarà lungo. La discussione si sposta, come diceva Alfano, ora in Parlamento. E allora quali sono le prime reazioni dell'opposizione? Elisabetta Fiorito. Anna, le prime reazioni dell'opposizione non sono affatto buone, no? Ricordiamo poi che l'accordo è necessario perché si tratta di una riforma costituzionale che ha bisogno dell'approvazione dei due terzi del Parlamento, altrimenti può essere sottoposta al referendum confermativo per il quale non è necessario il quorum, quindi l'accordo con l'opposizione è indispensabile. E invece l'opposizione è sul piede di guerra, sentiamo a questo proposito Dario Franceschini, capogruppo PD alla Camera. Intanto bisogna smetterla con questo imbroglio di raccontare agli italiani che è stata approvata una riforma, è una proposta che verrà mandata al Parlamento e che non ha nessuna possibilità di essere approvata anche facendo miracoli prima di un anno e mezzo, quindi campa cavallo. È un'operazione d'immagine, sbagliata, Ma il fatto che Berlusconi dica che non ha nulla a che fare con i suoi processi? Beh, su quello starà studiando altre norme, non credo che ci siano dubbi con legge ordinaria, ma questa ha a che fare con i suoi processi perché nasce con l'esplicita volontà di togliere autonomia all'accusa e metterlo sotto il controllo politico della maggioranza. Elisabetta Fiorito, dunque è l'inizio di un lungo processo. È l'inizio di un lungo processo, Anna, ricordiamo, questo è il varo al Consiglio dei Ministri, dopo però c'è il Parlamento e il Parlamento è sovrano. Anna, per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E sul fronte parlamentare, da registrare oggi intanto una nuova defezione per Futuro e Libertà, la deputata del FLI Giulia Cosenza ha deciso di tornare nel PDL, la decisione sarà ufficializzata tra qualche giorno. E intanto, mentre in Consiglio dei Ministri si discuteva di riforma della giustizia, a parlare alla Camera questa mattina Confindustria per lanciare un allarme, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è una vera e propria fotografia della situazione economica del nostro paese, quella scattata in audizione alla Camera dai vertici di Confindustria. Ci sono segnali di ripresa, ha spiegato il direttore generale di Viale dell'Astronomia Giampaolo Galli, tuttavia ha aggiunto, in questo scenario si sono inseriti nuovi fattori di rischio come lo shock rappresentato dal rincaro delle materie prime, tra tutte il petrolio, ma ascoltiamo Galli. La valutazione poi degli effetti dipende fondamentalmente da quanto durerà questo aumento del prezzo del petrolio e di altre materie prime, comunque è un effetto negativo sull'economia. Fino adesso, devo anche dire, le prospettive congiunturali ci sembrano positive, cioè c'è una ripresa lenta, ma la ripresa c'è, questa è la cosa importante. Un prezzo a $115 al barile, ha detto il direttore generale di Confindustria, può comportare un minor livello del prodotto interno lordo italiano di circa lo 0,7% in due anni a parità di altre condizioni. In una situazione questa è stato spiegato che può essere ulteriormente aggravata dai rialzi dei tassi di interesse annunciati dalle autorità monetarie. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto oggi l'Istat ha diffuso i dati della produzione industriale a gennaio, è tornata in negativo con un calo dell'1,5% rispetto a dicembre, una diminuzione dopo due mesi di segni positivi. Un allarme arriva anche dalla Banca Centrale Europea. Le informazioni giunte nell'ultimo mese indicano un aumento dell'inflazione nell'eurozona ampiamente riconducibile al rincaro delle materie prime, si legge nel bollettino mensile di marzo, aggiungendo che i rischi per le prospettive sui prezzi sono orientati verso l'alto. In Europa a preoccupare è la Spagna, Deborah Rosciani. Sì, l'agenzia di rating Moody's, molto interventista questa settimana, lo ha già fatto sulla Grecia lunedì, sia sul debito sovrano e ieri sulle banche greche, ha deciso di abbassare il rating sovrano della Spagna ad AA2 contro AA1 di prima, con outlook negativo, quindi con una prospettiva negativa. L'agenzia di rating parla della capacità del governo spagnolo di migliorare le finanze del paese, l'agenzia di rating si dice scettica su queste capacità e in particolare appunto non ritiene il paese in grado di raggiungere miglioramenti strutturali e sostenibili. Quindi giù il rating, ma stamattina ad abbattersi sui mercati che di fronte a questa notizia sono stati appunto, hanno reagito negativamente, sono tutti in calo di circa un punto percentuale in Europa stamattina e Madrid è proprio la peggior piazza d'Europa. C'è stata un'altra notizia appunto che si è abbattuta sui mercati, e cioè la bilancia commerciale cinese ha registrato in febbraio il primo deficit in 11 mesi e gli operatori hanno interpretato il dato come negativo per la salute globale dell'economia, e questo peraltro ha portato anche a molte vendite sull'euro che è sceso intorno a 1,3830 sul dollaro, era al di sopra di 1,39, quindi tante notizie negative. Ve ne segnalo un altro paio: la Banca Centrale della Corea del Sud ha aumentato i tassi di interesse per frenare l'inflazione, mentre la Banca Centrale della Nuova Zelanda li ha tagliati, perché ricorderete quest'area è stata devastata da un terremoto molto importante che ha coinvolto soprattutto la seconda città più grande della nazione, Christchurch, il mese scorso, e quindi qui è necessario sostenere l'economia con una politica monetaria più espansiva. Anna. Grazie anche a Deborah Rosciani. Veniamo alla situazione in Libia. Questa mattina c'è stata un'apertura verso i ribelli da parte di Parigi, ma intanto avanzano le truppe di Gheddafi. Allora facciamo il punto con Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. In Libia da questa mattina è ripresa l'offensiva del regime di Gheddafi contro Ras Lanuf verso la Cirenaica, aerei, forse anche anche unità navali hanno attaccato le posizioni dei ribelli a est della città petrolifera. Diverse esplosioni, risulta colpita anche un'abitazione. Questo nel giorno in cui a Parigi, come hai detto, proprio a poche ore dal vertice straordinario dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Bruxelles, Parigi, il presidente Sarkozy ha ricevuto i rappresentanti del Consiglio Provvisorio dei Ribelli e ha promesso il suo riconoscimento politico. Una notizia che ovviamente è stata accolta con grandi feste a Bengasi. Ci racconta tutto l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Qui a Bengasi ovviamente c'è un clima di euforia, cortei, bandiere, macchine che suonano. Insomma, il Comitato Nazionale, il governo de facto della Cirenaica, anche se loro sostengono di essere il governo di rappresentare tutta la Libia, ha accolto con grande entusiasmo questo riconoscimento da parte della Francia. E ora chiedono e invitano altri paesi, tra cui è stata anche l'Italia, a seguire l'esempio francese. Molta gente adesso addirittura sostiene alcuni fonti all'interno del comitato di volere anche una moneta propria, ossia non con il volto dell'odiato Gheddafi stampato sulle banconote. Quindi c'è un grande clima di euforia, però al fronte le cose vanno diversamente. Gheddafi aveva promesso di voler riconquistare la città di Ras Lanuf, il primo più importante terminal petrolifero nel Nord Africa, e di marciare anche su Brega, due città petrolifere tenute dai ribelli che servono per fornire loro gas e benzina. Ebbene, dopo l'esplosione di alcuni container di petrolio ieri, alcune cisterne di petrolio, oggi le forze di Gheddafi hanno serrato attacchi anche via mare con delle bombe pesanti, con l'artiglieria pesante. Per quanto ne sappiamo noi, oggi Ras Lanuf è ancora in mano ai ribelli, ma devo dire che la battaglia si è trasformata in una vera guerra in cui in questo momento sembrano superiori le forze di Gheddafi. Il regime è all'offensiva anche sul piano mediatico. La televisione di Stato libica ha mostrato oggi immagini di truppe governative sostenitori del colonnello Azzawiya. Un portavoce del governo ha mostrato oggi foto di cadaveri di soldati che afferma sono stati uccisi dai ribelli ad Al-Baida con delle esecuzioni. Tuttavia ben maggiore la credibilità che hanno le parole dei reporter BBC rapiti ieri. Sentiamo. Non riesco a descrivere nel dettaglio lo stato dei feriti. Alcuni di loro avevano tagli sulle mani, labbra spaccate, tutti urlavano. Così Goktay Koraltan, il cameraman della True BBC, detenuta per 21 ore dai miliziani libici fedeli a Gheddafi, a proposito dei prigionieri presenti nelle carceri dove i tre sono stati trattenuti. Dal secondo piano, ha proseguito Koraltan, sentivo provenire tante urla. Non riesco a descriverlo, era orribile, la cosa peggiore che ho visto nella mia vita, e ho visto un sacco di cose brutte. Tornando al fronte diplomatico, ieri l'incontro a Lisbona fra il vice ministro degli esteri libico Siala e il ministro degli esteri portoghese Luis Amado, che oggi ha spiegato di aver fatto sapere al Rais che per la comunità internazionale il suo regime è finito. Siala è ad Atene oggi, dove ha incontrato il ministro degli esteri greco Dimitris Dollis. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Catherine Ashton, ha avvalorato l'incontro spiegando che l'Unione continuerà a dialogare con chiunque per trovare la via più efficace per porre fine alle violenze. L'impressione è che finora i paesi europei si muovano un po' in ordine sparso. Abbiamo già detto del riconoscimento francese dei ribelli su questa decisione prudente. Poco fa il premier italiano Berlusconi, credo sia meglio ascoltare gli orientamenti di tutta la comunità europea, ha detto. Oggi Russia e Germania hanno escluso di nuovo l'intervento di terra e anche sulla no-fly zone. I ministri degli esteri dei due paesi sono detti scettici, ma la Russia ha bloccato la vendita delle armi e la Germania ha annunciato di aver congelato i conti di Banca Centrale e Authority per gli investimenti libiche. Ed è tutto. E grazie a Paolo Piacenza. Intanto da registrare c'è anche che i venti della rivolta stanno arrivando anche nella penisola araba. In Yemen il presidente Ali Abdullah Saleh è al potere da 32 anni. La popolazione da settimane in rivolta chiede le sue dimissioni in proteste che sono state sedate al prezzo di almeno una trentina di morti. Solo oggi Saleh si è impegnato a varare entro l'anno una nuova costituzione che preveda un sistema parlamentare e una legge elettorale. Arriva troppo tardi, ha commentato però un portavoce dell'opposizione. Più a est della penisola, nel piccolo e ben più ricco arcipelago del Bahrain, la monarchia non vacilla ancora, ma certo è preoccupata per il dichiarato intento dei movimenti integralisti sciiti di rovesciarla. E se in Qatar, l'emirato che ospita la principale base aerea nella regione, si sono diffuse voci di un tentato golpe, più contenute, ma non sedate, sono state le proteste antigovernative in Oman. Così accerchiata, l'Arabia Saudita, il gigante della regione per economia ed estensione, comincia a proporre timide aperture quando mancano 48 ore alla giornata della collera, indetta per venerdì prossimo da un gruppo su Facebook a cui hanno aderito ormai più di 25.000 utenti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Le 13 e 18 minuti, le notizie di oggi di GR24. Sì, unanime in Consiglio dei Ministri la riforma della giustizia. Berlusconi non è ad personam. Ora comincerà la discussione in Parlamento. Il prezzo del petrolio frena la ripresa. L'allarme di Confindustria. Romani convoca per domani la commissione prezzi. In Libia avanza l'esercito di Gheddafi. Parigi riconosce gli insorti. L'Europa ne discuterà oggi nel Consiglio europeo. E ripartiamo come avevamo già annunciato dai tagli ai beni culturali. Questa mattina malumori sono emersi anche alla presentazione delle giornate del FAI, dove c'è per noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Tagli indiscriminati contro i quali gridiamo tutto il nostro sdegno. La presidente del FAI, Ilaria Borletti Butoni, apre così la conferenza stampa dedicata alla 19ª edizione della giornata di primavera. Il FAI protesta duramente, dice la Butoni, contro gli ulteriori tagli dopo quelli di ieri al FUS che si starebbero abbattendo sul Ministero dei Beni Culturali nell'ordine di 70 milioni di euro. E alla protesta del FAI si aggiunge quella del sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro, che ha appena confermato questo ulteriore taglio di 70 milioni, ha parlato di situazione insostenibile con una cultura che viene ulteriormente mortificata. Non è presente invece il ministro per i beni culturali Bondi, ultimamente piuttosto assente. Intanto, nell'ottica invece di valorizzare la cultura, sono state presentate le due giornate, 26 e 27 marzo, durante le quali verranno aperti al pubblico beni solitamente inaccessibili nel resto dell'anno, 660 in 260 località italiane, con un percorso dedicato quest'anno ai 150 anni dell'Unità d'Italia, dal Palazzo del Quirinale alla Cascina Guiccioli a Ravenna, dove morì Anita Garibaldi, alle carceri del Castello di San Giorgio a Mantova, dove furono rinchiusi i martiri di Belfiore, i protagonisti di una drammatica pagina del Risorgimento. Da Roma è tutto, voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Paura in Abruzzo, nella notte è stata registrata una nuova scossa sismica. Sarà anche banale, ma quando il terremoto ha segnato la tua vita funziona così. Ogni scossa ti fa saltare ovunque ti trovi e ti fa correre in strada senza nemmeno pensarci. Ieri notte in Abruzzo scosse sismiche hanno fatto tremare Sulmona e Avezzano, magnitudo 3.1, una intensità sopportabile per gli edifici che, sembra, non hanno riportato danni, nessun danno ulteriore almeno rispetto al disastro provocato dal terremoto di 2 anni fa e dal quale, almeno sul fronte della ricostruzione, non si riesce a uscire. Le dimissioni del sindaco dell'Aquila annunciate lunedì diventano un altro ostacolo nella difficile rinascita della città. Il primo cittadino ha deciso di tirarsi indietro dopo che in consiglio comunale è mancato il numero legale per la votazione sulla riorganizzazione delle società partecipate che hanno un ruolo chiave nella ricostruzione. Solo l'ultima goccia in una realtà che sconta mancati trasferimenti dal governo e dal Ministero delle Finanze per circa 50 milioni e che hanno provocato un buco nel bilancio dell'Aquila di 32 milioni di euro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una brutta storia di cronaca. Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 4 anni, poi si è suicidato. È successo stamani ad Acqua Pendente in provincia di Viterbo. L'uomo era titolare di un bar pizzeria. Era una famiglia unita senza problemi, raccontano ora gli amici. Napoli al voto, dopo molte polemiche, forse la situazione si va chiarendo. Un altro tassello nel puzzle delle candidature per le comunali di Napoli. Il prefetto Mario Morcone scioglie le riserve e scende in campo per il Partito Democratico. Una scelta dettata dall'amore per la città, come ha spiegato comunicando il suo impegno, ma non all'insegna dell'unità politica. Il principale alleato del PD, l'Italia dei Valori, non sembra infatti intenzionato a fare passi indietro. Il suo candidato sindaco, l'ex PM Luigi De Magistris, oggi ha ribadito di essere già in campagna elettorale. Non ci sarà nessun passo indietro da parte mia, per questo che vado avanti ed è per questo che stiamo lavorando tra i partiti del centro-sinistra e con la cittadinanza attiva per costruire una grande coalizione di innovazione, di unità e di forza. In casa PDL invece è attesa in serata la decisione dell'ufficio di presidenza sulla candidatura dell'ex numero uno degli industriali partenopei Gianni Lettieri, una scelta che in ambito locale continua a dividere tra consensi e critiche, ma in campo in gara per la poltrona di sindaco ci sono anche Raimondo Pasquino per il terzo polo di Casini, Raffaele Di Monda che guida la lista civica PIN e Roberto Fico del Movimento 5 Stelle che fa riferimento a Beppe Grillo, per non parlare di Clemente Mastella che corre da solo. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Prima che in TV, dove sarà per la prima volta a rispondere a domande il prossimo Venerdì Santo, Papa Benedetto XVI Gesù lo racconta nel suo nuovo libro, sarà presentato ufficialmente nel pomeriggio in Vaticano, ma già si conoscono molti particolari. 7 edizioni per un totale di 1.200.000 copie solo di tiratura iniziale, contratti firmati con 22 case editrici di tutto il mondo. Sono questi i primi numeri del nuovo libro del Papa, Gesù di Nazareth, dall'ingresso di Gerusalemme fino alla resurrezione, che verrà presentato oggi pomeriggio in Vaticano. Nel suo secondo volume, il primo è del 2007, il Papa lancia un messaggio forte, specie in questo momento. Gesù, dice, con il suo annuncio ha separato la religione dalla dimensione politica. Un libro in cui Ratzinger rimarca la visione storica di Cristo e dice con chiarezza che non furono gli ebrei a condannare il figlio di Dio, ma solo l'aristocrazia di quel popolo. Affermazioni queste che già nei giorni scorsi, quando sono uscite le prime anticipazioni, sono state accolte con grande favore da gran parte delle comunità ebraiche e dagli stessi vertici dello Stato di Israele. Benedetto XVI, in un passaggio chiave, afferma poi che la barca della Chiesa attraversa mari burrascosi che la potrebbero far affondare, ma, aggiunge, ce la farà, perché, dice, il Signore è presente e viene in soccorso nel momento del bisogno. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. E siamo al calcio, anche il Milan fuori dall'Europa, insomma anno nero per le squadre italiane, lo chiede Dario Ceccarelli. Sì, Anna, hai ragione, per il calcio italiano la situazione si fa davvero pesante, dopo la Roma fuori anche il Milan, praticamente tranne l'Inter sono fuori tutte, una debacle. E anche per la squadra di Leonardo la strada è in salita, perché col Bayern di Monaco per passare il turno dovrà vincere e non sarà facile, intanto perché i tedeschi sono forti e poi perché l'Inter è impegnata nella rincorsa al Milan, che avrà il suo incrocio decisivo nel prossimo derby. E allora il Milan? Il Milan non ha funzionato proprio nel suo uomo simbolo, Ibrahimovic. Se c'è qualcuno da mettere sul banco degli accusati è lui. Come tante altre volte in campo europeo, il re degli scudetti stecca ancora. Il problema è che lui vuole una squadra al suo servizio, ma poi in queste situazioni non punge, insomma non fa la cosa per cui costa così tanto i gol. Quanto alla squadra, come squadra non ha giocato male. Il tecnico Allegri parla addirittura di un'ottima prestazione, che il Milan esce ingiustamente. Qui esagero un po', il Milan ha giocato bene nel primo tempo, poi venendo a mancare il gol e Boateng si è perso per strada. Purtroppo bisognava rimontare l'1-0 e se non si riesce si paga il dazio. Direi che è mancata la cattiveria, la famosa zampata che un vecchio irriducibile come Inzaghi avrebbe sicuramente data, ma quella è nel DNA, non si acquista al mercato. Ora il Milan ha un vantaggio solo, che può concentrarsi sullo scudetto. Grazie Dario Ceccarelli. Da aggiungere una notizia appena battuta delle agenzie: il comportamento di Daniele De Rossi sarà valutato dal CT della Nazionale Cesare Prandelli e dal Club Italia, così ha detto poco fa il numero uno della Federcalcio Giancarlo Abete, commentando la gomitata che il centrocampista della Roma ha rifilato in Champions League al capitano del Donetsk nel match di ritorno degli ottavi di finale. Un gesto dunque che potrebbe costargli, oltre alla pesante multa già inflitta da parte della Roma, ma anche la prossima convocazione in nazionale. E con questo ci fermiamo qui per questa edizione di GR24, la prossima come sempre alle 14 in regia Fabio Cantadori. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.